Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Di Rosita Celentano e Angelo Vaira. Buona domenica! Buona domenica a tutti! Un'altra domenica in nostra compagnia con Chiedimi se sono felice, @radio24.it. Allora, stiamo leggendo le vostre mail, vi ringraziamo tantissimo dell'affetto, dei suggerimenti, della stima, di tutte le cose belle che ci dite, ci raccontate. Cioè, pare che stiamo dando voce a una parte considerevole, no? di popolo italiano che finalmente dice c'è un programma nel quale mi rispetto. Ma che grazie poi la cosa che mi fa più piacere è che potrebbe sembrare un paradosso, ma la maggior parte della gente dice: ma non sai come mi piace la trasmissione, e pensa che io non ho neanche un cane. Non è cani né gatti né pesci rossi, niente. Quindi maggior ragione, vuol dire che parliamo di cose interessanti a prescindere. No, infatti, perché poi questo era il nostro obiettivo, ti ricordi? Chiedimi se sono felice. Sì, il mondo della prospettiva del cane, nel senso che il cane può aiutarci a guardare le cose in modo diverso, a restituirci un senso del sacro, del valore della vita. A leggere in modo diverso gli avvenimenti politici, economici, sociali, sì, sì, che tutto, ci sono. Quindi, io difatti, quando ti ho conosciuto, lo dico sempre. E le mie amiche o persone che poi ho conosciuto, che sono venute ai tuoi corsi, che hanno sentito parlare delle cose che noi cerchiamo di ripetere durante la trasmissione che stiamo facendo qui a Radio 24, era il fatto che la frase classica era: mi si è aperto un mondo. Ah, sì. Cioè, proprio questa la cosa particolare. E soprattutto ho iniziato a vedere delle cose che avevo sotto il naso, che prima non notavo, che prima non vedevo. Adesso nemmeno se mi tappo gli occhi non le vedo più. Sì. Il dramma è questo. Ma pensa, guarda, devo recuperare la frase di uno scrittore che diceva: camminare in un bosco con un cane è un'esperienza diversa rispetto a quando tu ci cammini da solo. Perché quando hai un legame con un cane, il fatto che lui esplori il bosco in un modo diverso, perché è attratto da cose che altrimenti tu non guarderesti, va ad annusare in posti che altrimenti tu non prenderesti, certo, in considerazione. È come un'estensione, come che non sono io il cane, ma siamo un unico essere vivente che però ha un mondo percettivo diverso, più espanso. Sì, e sì. Quindi l'esperienza di attraversare un bosco con un cane è differente, lo sa bene chi è il cane, è differente rispetto a quando c'è. Ma poi un sacco di luoghi comuni che prima erano solo luoghi comuni, che poi abbiamo sfatato, e altre cose invece, sai, quando si dice: ma nonna, sembra quasi che capisca, questo mia nonna, sembra quasi che capisca, capisce. Adesso io ti dicevo che le prime volte che iniziavo a capire un po' il linguaggio del corpo degli animali, a parte che ti serve anche per capire il linguaggio del corpo fra noi esseri umani, che sottovalutiamo pure quello a livello conscio, sì. Ma mi capita che quando vado in giro, intanto vedo prima l'animale, poi a volte riconosco i miei amici perché vedo il cane e dico: toh, mi sembra il cane della Paola, poi vedo e dico: ah no, è la Paola proprio. Quindi è talmente dalla prospettiva animale che io vivo per quello. Ma a seconda delle espressioni che hanno i cani che vengono portati a passeggio dai loro padroni, riesco a intuire che tipo di vita fanno: se sono felici, se sono stressati, se sono annoiati, se sono tristi. È pazzesco, perché riesci veramente a capire un sacco di cose. Sì, non soltanto loro poi, perché la cosa che a volte sembra è che loro sono tristi quasi come noi, possono gioire, pensare quasi come noi, e questo quasi è come se noi dicessimo: cioè, l'essere umano ci dà la misura di quello che è il top, e poi gli animali sì, certo, gli si avvicinano. Siamo l'unità di misura noi. Invece è molto interessante quello che ha fatto in campo umano un ricercatore, si chiama Howard Gardner. Lui dice: non possiamo più parlare di intelligenza, ma dobbiamo parlare di intelligenze. Per cui ne ha identificate alcune, per esempio, in ambito umano, che sono per esempio quella logico-matematica, cinestesica, musicale, artistica, no? Però questo per molti etologi ha significato anche il poter finalmente dire, visto che si parla di intelligenze, che gli animali hanno intelligenze diverse dalle nostre, non certo, la stessa intelligenza ma minore. Io mi ricordo quando abbiamo invitato Igor Sibaldi nel nostro live a Milano, il 12 marzo, che sì, lui dice: il gatto pensa in un modo diverso, pensa una cosa per volta, lui non vede tante persone davanti a sé, no? Se fosse qui con noi oggi, ma vedrebbe una persona alla volta. E il fatto che lui non abbia la parola, per lui è un vantaggio. Certo. Cioè, il fatto che non sia così attaccato alle parole. Quindi quando noi diciamo: e sai, gli manca la parola, il gatto di Igor dice: ma meno male che non ce l'ho. Wellington. Perché non mi consentirebbe di sperimentare il mondo in modo così trascendente, così... È verissimo, è verissimo. Non intervisteremo un'altra volta. Igor, vabbè, con Igor bisognerebbe... Io farei un appuntamento fisso ogni puntata, se fosse per me. Allora, oggi volevo parlare di... biofilia, cioè la tendenza a osservare, amare, prendersi cura di un altro essere vivente, e non importa se è di un'altra specie. Ecco. Che è una cosa fantastica. Perché si allaccia a quello che abbiamo detto prima. Sì, perché tu spesso fai vedere immagini di animali di razze completamente diverse. Io mi ricordo quel filmato che abbiamo visto fantastico del corvo che giocava con il Jack Russell. Se l'avete visto, andate su YouTube a cercarlo, perché è esilarante, tu non ci credi, cioè il corvo va a cercare Jack Russell proprio in continuazione, ma ci gioca per tot, il filmato va avanti per tot minuti. L'ippopotamo che salva l'antilope dai coccodrilli. Sì, il corvo che gioca con una sorta di frisbee sul tetto da solo a scivolare. La sua slitta personale, faceva snowboard. Tipo snowboard, sì, cioè ci sono tantissime queste cose. Qui è stato fatto un esperimento molto interessante, cioè è stato preso... Dove? Lo dice? Allora, di che cosa stiamo parlando? Allora, parlando di biofilia. Questa cosa è Fatto un articolo per capire se è peggio un bimbo o un cane maltrattato, anche per capire... Perché? Sì. Guarda, aspetta un attimo che c'è qui il professore che mi sta bacchettando. No, io giustamente, sei un allora, despota. Allora, Sandra... Sandra no, sarai tu. Barba, che noia, che noia, che barba, che barba, vedi, che noia. Sandra, sei te che ti lamenti. Allora, no, mi lamento, ma perché sei un despota? Cioè, ma non è che despota, io mi medesimo in chi è a casa e dice, ma che articolo è se lo voglio recuperare? Dove è stato scritto? Lo dica. No, lo dica lei, lo Sandra. Dica. Adesso le do adesso le do in testa sto giornale. Guarda che sono stufa. Guarda che non ne posso più, Ma come mi ruba le parole di bocca sta santa donna. Madonna, che favolosi Sandra e Raimondo, come ci mancano. Io credo che manchino a chiunque. Continuiamo. Vai. E con oggi vi salutiamo e se la prossima volta ci fate trovare anche un letto con lenzuolo che io scrivo. Che un po' sei Sandra tu la notte a letto, te lo dico. Sì. Allora, parlavamo di biofilia, sì. Fra le varie cose sì. Di a pagina 84 di Focus Extra, 5,90 euro in Italia, uscito il... non c'è che scritto. Ah, vabbè, ok. Focus Extra, ok. Quindi un articolo dedicato alla biofilia. Biofilia. Va bene, vada avanti. Focus Extra 70. No, perché tu poi vuoi il pignolare e pignolo. Ed è che passa il tempo. Allora, osservare un cucciolo si attivano centri cerebrali specifici che ci riempiono di tenerezza e voglia di tenerlo sempre accanto. Allora, fra le varie cose, qui parlano appunto della tenerezza, del prendersi cura, dell'amare, osservare un altro essere vivente indipendentemente che sia della stessa razza piuttosto che non. Cioè, è stato fatto un piccolo gruppo con un cucciolo, un neonato, un uomo adulto o un cane adulto. Sì. Ok? La persona che osservava questo piccolo gruppo era una persona adulta che per vedere da chi veniva una vocale. Cosa ma perché sta domenica è così, scusami? Da chi era attratto effettivamente, chi voleva proteggere, a chi veniva bravo. Qual era l'istinto della persona di prendersi cura per primo? Ah, ok, accudire. Di accudire di più un uomo, un bambino o un cucciolo o un cane adulto. Allora, la primissima il primo posto di prima empatia è stata verso il neonato, subito dopo verso il cucciolo, poi verso un cane adulto e per ultimo ci si è avvicinati alla persona anziana. La persona adulta. Perché questo studio dimostra che negli esseri umani non è la specie a determinare l'empatia, quanto lo stato di innocenza e di impossibilità di difendersi della vittima. Fantastico. Capisci? Fantastico. Sì. Quindi, sì, come stupirsi quando si dice che alcune persone amano più gli animali, finiscono per dire che amano più gli animali degli esseri umani? Esattamente. Poi, sai, questo tra l'altro mi torna perché, per esempio, io una cosa che a me farebbe impazzire è essere obbligato a non potermi occupare di Jean-Pierre. Mi succede qualcosa, questo stato di innocenza te lo tieni? Perché adesso ascoltiamo il traffico. È tutto tuo. Ascoltiamo il traffico e poi ci ritroviamo. Va bene, qua. Tra poco. Tutti i giorni, dalle 14 alle 15.30, il professor Genta e il professor Pardo, tutti convocati, sì, un'ora e mezza, 90 minuti, il tempo di una partita, grande entusiasmo, ottimismo. Sempre su Radio 24, la passione si sente. E a tutti i convocati weekend ci sono anch'io, sono Giovanni Capuano, vi aspetto ogni domenica alle 17. chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. La mia innocenza, eravamo la mia innocenza. Eravamo la tua innocenza, te la sei tenuta in saccoccia? Me la sono tenuta, sì, ecco, sì, mi sono tenuta la mia innocenza. Giusto, appunto, parlavamo dell'innocenza. No, parlavamo del fatto che si è empatici non a seconda della specie, cioè non è che tu sei più empatico nei confronti di un essere umano piuttosto che di un animale. Dalla ricerca che tu prima leggevi, noi siamo empatici verso quegli esseri che presentano uno stato di innocenza maggiore, per cui siamo più empatici verso un cucciolo, per esempio, di cane o di agnello o di gatto rispetto ad un essere umano adulto. Certo. Perché io in tanti anni tanta gente mi ha detto: sai che io sto soffrendo di più adesso per la morte del mio cane che non di quel mio parente che mi è successo, eccetera, eccetera. Perché sì, ma non per mancanza di affetto, eh? Tutti quanti mi dicono è una sofferenza diversa, perché mentre per un essere umano adulto quando se ne va tu sai che ha una certa cognizione, si spiega le cose, riesce a trovare un senso, per gli animali mi sembra che questa cosa qua invece la subiscono un pochino di più. Quindi questo stato di innocenza tu lo vorresti preservare, non... Ma anche perché oggi gli animali, qualunque, anche l'animale più forte al mondo, è totalmente indifeso di fronte all'uomo che ha le armi e che fa un gioco sporco. Guarda solamente un toro durante le corride. Se ci fosse un combattimento alla pari uomo contro toro, l'uomo non gliela fa. Però voglio dire, ecco perché noi abbiamo maggiore sensibilità, perché gli animali comunque li vedi indifesi nei confronti nostri, li vedi totalmente come un bambino o come un anziano. Difatti poi io più invecchio più mi trovo a essere sensibile, mi fanno sempre più tenerezza, no? Mi piacerebbe, c'è proprio l'istinto di prendersi cura, di accudire, di aiutare, di far capire, e l'animale ti fa tenerezza forse perché noi non abbiamo i mezzi per far capire a loro magari quando magari devi portare al veterinario che hanno paura. Capito? Allora, riprendiamo questo articolo sulla biofilia. Biofilia sì, quindi è l'amore per la vita. Ecco, non è amore per qualcuno che è della tua stessa specie. Tra l'altro prima riflettevamo anche su non so, l'ippopotamo che salva la gazzella, sì. Cioè anche tra animali c'è questa forma di accudimento e di empatia interspecie, cioè tra una specie e l'altra. Ma fra l'altro tu leggevi anche una cosa particolare, che a seconda, le donne per esempio, a seconda se sono in prendono la pillola, non la prendono, no, o sono in menopausa, a seconda, sì, le donne giovani o quelle che prendono la pillola, cioè a seconda del loro livello di estrogeni nel sangue, hanno una tendenza maggiore a ritenere, a provare empatia nei confronti dell'animale cute, no, dicono gli americani, cioè, sì, quello, dell'animale tenero. Quello tenero, sì. No? Ci sono altre cose però interessanti. Prima tu hai letto una frase in questo articolo, ricordiamo che è un articolo pubblicato su Focus Extra, che si chiama, è uno speciale di Focus che si chiama Noi e Loro, e parla di cani, gatti e conigli, la scienza dell'animale domestico e del suo padrone, che a noi non piace molto questa parola, però insomma, no, si chiama infatti. Così. Allora, in questo articolo dedicato alla biofilia, dice: osservando un cucciolo si attivano centri cerebrali specifici che riempiono di tenerezza e voglia di tenerlo sempre accanto. Quindi è interessante questa proprio corrispondenza a livello neurale, a livello cerebrale. Gli scienziati si sono anche chiesti, questa è una cosa che aggiungo io, che non ho trovato scritto su questo articolo, ci si è chiesti perché succede che l'essere umano ha questa tendenza a accudire i cuccioli anche delle altre specie, no? Con queste forme umano? L'essere umano. L'essere umano tende a, quando vede un se tu ci fai caso, no? Non so, i copripiumoni sono pieni di cuccioli, i calendari con i cuccioli, foto con i cuccioli. Però come i bambini, anche i bambini, le foto, i calendari con i bambini fanno lo stesso effetto. Perché sono dei cuccioli anche loro. Certo. Però perché ci fanno tenerezza? Cioè l'etologo, lo psicologo, cioè, si fa questa domanda. Per la gente comune dice, vabbè, perché è così? E che lo psicologo dice, ma perché? E che risposta si è data? Allora, una delle risposte è questa. C'è una differenza, per esempio, tra l'Homo sapiens e l'Homo di Neanderthal. L'Homo di Neanderthal aveva un bacino più grosso. Questo vuol dire che la gestazione durava più a lungo e che il bambino che nasceva era meno come si intelligente. Dice? No, era al contrario, era già più sviluppato, aveva bisogno di meno protezione dei nostri bambini di Homo sapiens. Ah, sì? Perché il bacino più stretto delle nostre donne causa il fatto che il bambino che nasce deve avere ancora un cranio molle, quindi deve nascere prematuramente rispetto all'uomo di Neanderthal. Ah sì? Allora, che cosa succede? Siccome nasce prematuramente e madre natura ti dice accudiscilo perché sennò muore, perché ha bisogno di più cura rispetto agli altri animali. Mm-hmm. Se tu confronti, per esempio, che cosa succede ad un cavallo quando nasce, in poche ore è già in piedi. Sì, certo. No? Sai quei filmati, sì, che vediamo, sì, anche nel National Geographic, con le gazzelle che nascono dopo poche ore sono già in piedi, sì, perché, sì, devono provvedere. Ecco, un bambino non sa farlo questo. Un bambino è in piedi ed è in grado di camminare dopo anni. Quindi questo ci obbliga. Mesi, sì, diciamo mesi, però dice, comincia a camminare sulle sue gambine dopo un anno e mezzo. Zampe, sì. Poi sono quelli ritardati anni, che a tre anni non camminano ancora. Vabbè, non è che. Allora, il discorso è: dobbiamo occuparcene, cioè madre natura dice prenditi cura dei tuoi piccoli, e quindi è lì che ci ha instillato la tendenza a prenderci cura dei cuccioli tutti, di queste forme rotonde, degli occhi grandi, e pensa addirittura che uno dei processi che ha legato il lupo all'uomo rendendolo cane è la cosiddetta fase del maternaggio. Cioè, ci sono reperti archeologici che mostrano come le donne allattassero al proprio seno i lupi, i cuccioli di lupo. Ma va? Sì. È anche il contrario, mi sa, però. Cioè, tipo Romolo e Remo. Tipo lo Romolo e Remolo. No, aspetta, ricordiamo, aspetta. Romolo e Remolo. Remolo. Tipo Romolo, l'ho detto apposta, adesso non vorrei mai che qui non si sa mai che uno dice una parola un attimo strana. Ricorda quella gaffe di Berlusconi. No, sì. Vabbè, quelle, grazie a Dio non sono un politico, capita, posso orrori permettermi io di fare tanti di quegli strafalcioni. No, Mowgli, che mi dici di Mowgli? Mowgli è stato allevato da un branco di lupi, eh? C'era anche, sai, mi ricordo un famoso Mowgli film in bianco e nero, come che si chiamava? Il libro della giungla. No, quello in bianco e nero, film, Mowgli. Un film in bianco e nero che era un documentario. Sì, no, era una bambina, bambina che era stata trovata. Ma ci sono, ecco, casi. Appunto. Poi Tarzan. Che... Vuoi mettere Tarzan? Scusa, abbiamo Tarzan. Abbiamo Tarzan. Eccolo. Puoi dirlo, Borgo. Bella. E che bel pizzicorino ti fanno dentro. Mowgli. Hai capito, sì o no? Grazie, Balù. Vicino a te quel che ti occorre troverai. Lo troverò. Lo troverai. No, ti bastan poche briciole, lo stretto indispensabile, e poi malanni tuoi dimenticar. Vado avanti. Non potevi farla cantante, Rosita Celendana. No, guarda, se c'è una cosa che a me mette l'ansia veramente di tutto il rutilante mondo dello spettacolo è quello di cantare. E voi capite anche il perché, capisci? Hai qualcosa da aggiungere a proposito di questo articolo, mia cara Rosita? Guarda, avrei un sacco Celentano di cose da aggiungere dall'alto della mia sapienza e della mia, dei miei diplomi e dei miei gagliardetti e dei miei tatuaggi. Che non ho. Sai che c'è stato un altro esperimento che hanno fatto? Hanno messo delle persone con in mano, sai, quelle pellicole che con le bolle, quelle che si schiacciano, sì, le bolle, sì, da imballaggio. Spiegalo, bellissimo. Allora, vabbè, insomma, hanno fatto questo esperimento qua in cui hanno mostrato a delle persone delle foto, delle immagini, no? Di, per esempio, di animali, di cuccioli, eccetera, eccetera. E quando c'era questa empatia che nasceva nei confronti dei cuccioli, queste persone strezzavano maggiormente le bolle. Questo a significare, pare, da parte di questo articolo, che quando tu vedi questi animali ti viene voglia di strizzarli, no? Questa iperattività per scaricare questa energia che viene. Però nasce. Tu mi insegni anche che, per esempio. Tanto io non insegno a nessuno, tantomeno a lei. tu cercheresti di, se vorresti insegnare anche, cioè abbiamo solo un minuto di tempo per dire questa castroneria. No, scherzo, non è una castroneria. Che, per esempio, coi cani, quando abbiamo letto le 11 cose che facciamo al nostro cane, sì, ma che forse non gli piacciono, c'era proprio questa di non stargli troppo addosso, strizzarli un po'. Pat sulla testa. Quindi, comunque, bisogna sempre rispettare il bisogno dell'altro, ma tanto dall'espressione si capisce. Sì. È come, sì, quando al mattino a te ti strizzo le guance, ti faccio, ti tiro le braccia, io ti dico lascia stare. No, tu veramente mi dici amore ancora però. E con questo, allora, perché dobbiamo svelare la nostra intimità qui in pubblica piazza, no? Pubblica piazza, ci sentiamo lo spot a dopo, ciao. Chiedimi se sono felice, il mondo dalla prospettiva del cane. sempre il mondo della prospettiva del cane. Noi, mi raccomando, non perdiamo mai questo focus del cane e degli altri animali. Parliamo anche del fatto che quando ti interroghi sulla prospettiva degli animali arriva un momento in cui ti dici: ma stiamo facendo la cosa giusta per loro? Sì. Soffrono loro? Dovremmo farci queste domande anche quando abbiamo un bambino, con un compagno, una compagna, un fratello, una sorella. È bello questa parola, queste due parole messe assieme, che è essere animali, perché quando tu ti interroghi sul mondo dalla prospettiva dell'animale diventi anche l'animale, quindi sei animale. Io penso che da questo che nasca proprio il nome di una associazione che si occupa di diritti degli animali, che noi seguiamo spesso. Abbiamo recentemente parlato anche della campagna che ha fatto contro il foie gras, sì, coinvolgendo grandi marchi, che qualcuno ha già preso qualche Panorama ha già evitato di mettere, di vendere il foie gras nei suoi supermercati, negli scaffali. Insomma, è un'associazione che lotta per i diritti degli animali e riesce anche a realizzare delle cose. Abbiamo in linea il portavoce dell'associazione Essere Animali, ed è Simone Montuschi. Ciao Simone. Ciao Angelo, ciao Rosita, ciao Simone. Senti, ma precisamente Essere Animali che cos'è? Una onlus? È un'associazione animalista. Siamo una onlus che, accanto diciamo alle iniziative classiche di sensibilizzazione come le campagne informative, i tavoli diciamo informativi, organizziamo anche la nostra caratteristica, quella di realizzare delle indagini, delle investigazioni all'interno degli allevamenti o degli altri luoghi dove vengono uccisi, utilizzati gli animali. Bello, ci fai un esempio di recente di investigazione che avete fatto? Proprio quella che hai nominato sul foie gras, diciamo quella più recente. Siamo stati durante l'estate dello scorso anno in Francia e diciamo il nostro team investigativo si è infiltrato negli allevamenti di produzione del foie gras. Abbiamo diffuso queste immagini, tra l'altro ottimi risultati, perché comunque siamo riusciti ad avere spazio su molte testate giornalistiche, sui media nazionali, e da queste immagini diciamo terribili è partita poi una campagna, come dicevi, diretta ai supermercati per chiedere di cessare la vendita di foie gras. Perché a volte le persone si comportano in questo modo soltanto perché non sanno. Mi ricorda noi portiamo gli animali e la zoantropologia, la etologia nelle scuole, dai bambini, no? Quando tu gli dici il pollo, che cos'è il pollo, bambini? E loro ti dicono: beh, una il pollo fettina panata. Sì, è quello che tu apri quando c'è il frigo. Quando gli dici che il pollo prima era una gallina o un gallo, loro spalancano gli occhi e dicono: cosa? Quando gli dici che cos'è il latte, da dove arriva, loro ti dicono: dal supermercato. Sì, manca quando la gli dici consapevolezza. Fateci un esempio di animali, loro ti dicono il dinosauro e la tigre, non ti dicono la mucca. Allora questo mi ricorda un po' gli adulti quando mangiano il foie gras e non fanno il collegamento. Sì, quella lì perfettamente, perché moltissime persone anche che ci contattano, comunque con cui parliamo ai banchetti informativi, vedendo le immagini, vedendo come realmente vengono ottenuti questi prodotti alimentari, ci dicono appunto che non sapevano nulla. Vedi. E si informeranno ulteriormente. Bravi. Oggi se chiedi cos'è una gallina ti dicono: è quella che parla con Banderas, che peraltro si chiama Rosita. Vedi. Quindi rovinata. No, a parte le battute sono felicissima che voi fate, Simone, veramente avete tutta la mia stima, il mio appoggio. Dovete avere grande forza e grande coraggio, perché io proprio non riesco a vedere certe immagini, perché mi sento veramente male, e credo che anche voi vi fate uno sforzo, però questo è finalizzato a una sensibilizzazione, ad aiutare queste povere bestie. Voi siete entrati anche negli allevamenti di maiali, mi sembra. Esattamente, sì, abbiamo realizzato anche indagini all'interno di allevamenti di maiali in Italia, allevamenti di gallino vaiole, anche ci hanno dedicati anche cavalli, alle pellicce, ai cavalli. Abbiamo fatto investigazioni all'interno degli ultimi allevamenti di visoni in Italia, per cui abbiamo anche una campagna che si chiama Visoni Liberi, mirata appunto all'abolizione di questa tipologia di allevamento, che è già stata vietata in molti paesi dell'Unione Europea. Come diceva Rosita, ci siamo occupati anche di quella che viene chiamata la tratta dei cavalli. L'Italia è uno dei primi paesi nell'Unione Europea e uno dei primi al mondo per consumo pro capite di carne di cavallo. Moltissime persone però non sanno da dove provengono questi animali, che vengono importati vivi da paesi esteri come la Polonia, la Francia, la Spagna, quindi sono costretti anche a viaggi estenuanti, anche di 2 ore o 2000 chilometri, arrivano veramente stremati. E a proposito, abbiamo proprio fatto un'indagine nei maggiori macelli italiani, che sono situati in Puglia, che è una regione diciamo con consumo di carne di cavallo molto radicato. Sì. E abbiamo assistito a delle immagini veramente incredibili, comunque i cavalli arrivano esausti dopo dei trasporti lunghissimi e sono direi pienamente coscienti mentre vengono macellati. Mamma mia, ecco, vedi, io purtroppo ultimamente da quando faccio la trasmissione la Puglia detiene dei record veramente deplorevoli, mm-hmm. però che è una terra che io amo fort, io sono originaria della Puglia e questo mi dispiace tanto veramente, perché non ci si può più nascondere dietro un filo d'erba. Io dico sempre, uno deve decidere che cosa fare della propria vita e però oggi non bisogna sapere, quando ti mangi una bistecca, la famosa cotoletta, sapere quella cotoletta dov'era, da dove arriva. È un'alimentazione consapevole. Sì, una vita consapevole. Poi fai tutte le tue scelte. Invece a me fanno molto incazzare tutti quelli che minimizzano e non vogliono sapere e continuano a sbandierare che meraviglia la caccia, i cacciatori amano, sono quelli che amano la natura, una bistecca cosa vuoi che sia, il cane chi se ne frega, e il cavallo così. Invece io li vorrei portare proprio queste persone a vedere come non arriva. Non è soltanto questo, vedi, invece questo atteggiamento, quello di chiusura in se stessi e del che me ne fotte, no? cioè riguarda me, no? Quindi va bene tutto, quello che ha portato poi la stessa Italia in questa situazione di crisi, no? Dove ogni politico pensa prima di tutto alla sua poltrona, dove ogni italiano pensa di tutto, prima di tutto al suo portafoglio. Ma tanto tutto torna. Gli animali è quello che noi facciamo, sai come diceva Gandhi, no? Sì. Il progresso morale di una nazione lo si può misurare attraverso il rapporto, dal modo in cui tratta gli animali. Se, immagino che Simone sarà d'accordo su questa, sono su questa frase. Sono d'accordissimo, vi è tantissima disinformazione e anche mancanza a volte purtroppo di venire a conoscenza delle reali situazioni degli animali. Una cosa che possiamo dire proprio da un punto di vista razionale, non emotivo, è che comunque in Italia ci sono veramente migliaia di animali considerati da reddito, quindi utilizzati per la carne, per la produzione di latte e uova, che sono condannati veramente a sofferenze indicibili, perché le stesse condizioni, diciamo, legali di allevamento, quindi ciò che si può fare, consiste nell'allevamento di animali in minimi spazi, quindi o capannoni sovraffollati, ci pensiamo ad esempio all'allevamento delle galline ovaiole, che sono, possono essere o rinchiuse in gabbia o comunque anche allevate a terra, a volte veramente in capannoni che hanno dei livelli di sovraffollamento inverosimili, o se prendiamo come esempio l'allevamento dei suini, dove ancora adesso le scrofe vengono veramente tenute immobilizzate tutta la vita e costrette a sfornare, diciamo, cuccioli, perché non sono altro che fabbriche di animali gli allevamenti. Infatti anche con questo nome emblematico abbiamo dato appunto il nome alla nostra due indagini. Bene. Di carne, fabbriche. Quindi uno può allontanarsi dalla propria grettezza, diventare un essere umano più evoluto, moralmente evoluto, più sensibile, più raffinato, seguendo anche essere animali. Se uno quindi vuole seguirvi, darvi una mano, sostenervi o essere più informato attraverso quello che voi fate, che cosa deve fare? Dove vi trova? Allora, ci trova nelle piazze, nelle città italiane, dove siamo attivi con tanti gruppi locali, facciamo iniziative un po' veramente dappertutto. Mm-hmm. Ci trova anche sui social network, abbiamo una pagina Facebook molto attiva, o sul nostro sito internet che è www.essereanimali.org. Invito tutti quanti a scriverci, a contattarci anche per consigli, per chiedere informazioni. Cosa si può fare per sostenervi? Uno che volesse dire, che vuole aiutare la vostra onlus, che cosa può fare? Ma innanzitutto può partecipare anche direttamente alle iniziative, può contattarci, questo è molto importante, noi invitiamo uh-huh. sempre l'attivismo in prima persona, può anche sostenerci con una donazione o comunque diventando socio, perché siamo un'associazione no profit, quindi diciamo che viviamo proprio della donazione dei nostri sostenitori, che sono importantissime e che ci permettono di fare bene, diciamo, il nostro lavoro. Benissimo. Ok, grazie. Grazie Simone Montuschi, grazie Essere Animali. Grazie a voi. Ciao, grazie. Si è addormentato il Vaira. Riflettevo su questa frase, no? Su questa... E Zazà cosa c'è? Cioè, Rosita parla col suo cane, io sto dicendo delle cose importanti, ovviamente come sempre lei pensa ad altro. Capì? No, ti sento con le orecchie, No, allora mi viene in mente da Essere Animali una frase di Mark Bekoff, che noi citiamo mm-hmm. spesso in quanto etologo cognitivo, quindi molto, molto vicino a noi amici degli animali. Lui dice: quando io studio i coyote io divento un coyote. Cioè, a proposito fantastico. Di essere animali, cioè questo fatto di identificarsi. E un'altra frase di Gudrun Feldman, che è un istruttore cinofilo molto bravo tedesco, che dice: non la violenza, bensì l'immedesimazione educa il cane. Questo per chi ci ascolta, chi ha il cane o chi ha il ruolo di educatore, vuole educare qualcuno, si deve sempre soffermare su queste cose. Cioè immedesimarmi, capire l'altro, mettermi al suo posto, guardare le cose dal suo punto di vista, è un buon esercizio anche ai fini dell'educazione. Ma che è un buon esercizio anche fra persone, quando uno si dice prova a metterti, mettiti al mio posto, guarda la, la realtà. Quasi mai questa... le persone mai, lo fanno. Mai, non si fa mai. Però insomma, noi cerchiamo di ricordarlo sempre. Fra l'altro Mark Beckhoff ha scritto un articolo su questo Focus Extra di cui stiamo parlando. Che è bellissimo, perché dice: che mondo sarebbe se non ci fossero loro, gli animali? E ne parleremo domenica prossima, probabilmente. Adesso però volevo rispondere a una mail che ci ha mandato Franco Del Moro, che ce l'ha mandata più di una. Ciao Franco, a cui e anche sua moglie, no? Michele Genovesi, vedo. Insieme a Kira, Pepper, Pink e Floyd, i nostri compagni. Avanti, Floyd. Solamente perché ha chiamato i cani. Pink e Floyd è fantastico. Cioè io Pink Floyd, vorrei vedere chi non li ama. No, solleva delle questioni importanti. Franco, quindi un ascoltatore non soltanto attento a quello che diciamo, ma anche che ci dà degli input, degli stimoli. Sì, perché loro si trovano spesso a salvare cani che trovano per strada, in autostrada lì, e dice effettivamente non è facile salvare un cane. Lui dice perché bisogna cosa fare e perché bisogna farlo quando si incontrano cani randagi, perché lui dice si può fare intervenire qualunque istituzione in caso di bisogno, come la polizia, i carabinieri, la guardia forestale, i vigili del fuoco, la polizia municipale, eccetera. Sono tutti organi che hanno l'obbligo di legge di recuperare l'animale e portarlo in canile, anche se la gente magari non lo sa, non sa mai chi deve chiamare, a meno che non lo vuoi fare tu personalmente. E in quel caso tu, Angelo, anche l'altro giorno ti ricordi che abbiamo frenato sulla statale, c'era un cane poverino col collare, allora, che probabilmente sarà perso. Allora partiamo proprio da questa nostra esperienza per dare una mano a chi è a casa, no? Perché ci sono tante cose da dire su questa cosa del randagismo. Quando incontro un cane perso per strada, che cosa faccio? Allora, a volte ci è capitato di vedere dei cani senza il proprietario, ti ricordi? Sì. Però ogni volta tu mi dicevi è questo, io ti dicevo non ti preoccupare perché tanto questo è il cane che esce dal cancello, si fa un giro e poi rientra. Esatto. Vero? L'altra volta invece non t'ho dovuto dire nulla, eravamo su questa provinciale, sì, no? Lungo il lago di Garlate, e a un certo punto si è visto un cane e tu hai detto ma no, ma questo qua si è perso, ti ricordi? Che cosa qual è stata la differenza? Perché era in stato totale di paura, di confusione, con la lingua di fuori, lo vedevi che andava a scatti, che non aveva la direzione, esatto, che non sapeva, e aveva il collare, quindi, probabilmente e aveva anche perso il collare, quindi già uno dice ma allora la discriminante è che cosa? Se vedo il collare significa che di proprietà posso stare tranquillo? No. Se tu vedi per strada un cane che corre, è spaesato, è spaventato perché glielo leggi, no? Nell'espressione, sì, certo, del volto, bene, allora forse è il caso che tu ti fermi e intervieni. E ci sono anche dei casi dove è meglio non intervenire, ne parliamo tra poco. Che cosa ho fatto io? Sono sceso, ho preso il guinzaglio, un guinzaglio che avevo in macchina, perché come ogni buon cinofilo ho sempre un guinzaglio a portata di mano. Sono sceso, ho cercato di diventare amico di quel cane che però era molto spaventato, sì, quindi mi ha sorpassato ed è scappato altrove. Ho corso anch'io con lui, lui era già abbastanza lontano per poter monitorare gli spostamenti, ma alla fine non l'abbiamo più visto, quindi l'abbiamo perso, purtroppo, in quel caso. Sì. Allora, che cosa si fa in questo caso? Si allertano le forze dell'ordine. Le puoi allertare anche quando il cane l'hai recuperato, cioè quando il cane sei riuscito a mettergli un guinzaglio, a tenerlo lì. Le forze dell'ordine sono obbligate ad intervenire, a prendere il cane e portarlo in canile. Ora, è proprio da qui che nasce la mia riflessione. A volte ci sono delle situazioni dove è meglio che tu le forze dell'ordine non le chiami. So che sto dicendo una blasfemia per qualcuno. È vero, sono d'accordo. Però mentre in una regione come la nostra, come la Lombardia, il randagismo è praticamente quasi assente, ci sono altre regioni, per esempio la Puglia, la mia amata Puglia, dove di cani randagi ce ne sono tanti, vivono in branco e fanno una vita molto più bella, cioè una qualità della vita molto più alta, che essere presi e portati in canile. Quindi in quel caso non chiamo nessuno. Non so se questa è una corretta educazione civica, però mi preoccupa molto di più sapere che uno di quei cani è andato a finire in uno dei canili lager che spesso sono collusi con la mafia, prendono. Quanto abbiamo? Abbiamo pochissimo, lo riprendiamo tra poco questo argomento. Ok. Allora andiamo il traffico e poi riprendiamo il traffico e tra poco ci ritroviamo con questo argomento. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Facciamo dei quiz mentre eravamo qui nella pausa. Il croccantere. Cos'è il croccantere? Il croccantere. Facevamo. Cos'è la resilienza? Un ripasso sulla resilienza, no? Allora deriva da. No, adesso se vogliamo possiamo fermarci un attimo prima di continuare con la mail del nostro ascoltatore, perché di resilienza se ne parla sempre di più, dicevamo. Cioè una parola che fino a qualche anno fa non si sentiva. Sì, esatto. È interessante perché riguarda i nostri cani e riguarda anche noi stessi, noi, certo, esseri umani. Quindi per esempio c'è un ricercatore americano che si chiama Richard Davidson che ha individuato sempre nomi, date, pagine. Scusa, ma è il mio lavoro, cioè adesso non è che sono speciale. Ecco. E questo ricercatore americano dal nome Richard Davidson che ha scoperto all'interno del cervello un gruppo di neuroni che è associato esattamente e precisamente alla resilienza. Dicasi resilienza. Allora, e la resilienza velocemente dai venti pressanti. Ma perché bravissima, mi interrompi? Bravissima, scusami. Grazie, me lo so scritto durante la pausa. Vedi che io non barlo. Quindi, sono per chi, onesta. Per chi ha cani, per chi anche non ce li ha, resilienza, che questo termine è diventato così importante, cosa è, Rosita Celentano? Diccelo. Il riprendersi velocemente da eventi pressanti. Bravissima. Tipo, io mi riprendo velocemente da te. Che sono un evento molto pressante. Sei a volte un evento pressante. Dobbiamo avere entrambi una grande resilienza, amore mio. No, amore mio, perché io sono un bijou, una primula sbocciata che non dà fastidio. Sì, sì. Profuso. Esatto. Lo sanno tutti i nostri ascoltatori che sei una primula, un bijou e molto delicata anche. Esatto. Molto resiliente anche. Allora, pensa, questa deriva è una mutuazione della psicologia dall'ingegneria dei metalli, perché quando si studiano i metalli si studia quanto sono resilienti, che non è resistente, non è quanto, che il metallo non si deve piegare, non si deve spezzare. È una volta che l'ho piegato, come si è comportato, ha mantenuto le sue proprietà? Allora, la resilienza negli individui è a saper affrontare e riprendersi velocemente dagli eventi pressanti. Ed è il contrario della fragilità. Una persona che non è resiliente è fragile, quindi basta poco per destabilizzarla, no? Per intenderci. Ed è una qualità che si può sviluppare, magari dedicheremo una puntata a come sviluppare la resilienza negli esseri umani e nei nostri cani. Ora confesserò a tutti in radio che quando io ti sento parlare così colto mi ecciti. Ecco, adesso sveliamo la nostra intimità. Ecco, no, perché è vero, cioè, sto diventando sempre più forbito, capito? Io ogni giorno prendo un vocabolario e mi ripasso una parola nuova, conosco una parola nuova. Ti è mancata la sigletta sulla mia parola che mi eccita il Vaira quando è così colto. A me le persone colte... No, felicità. No, adesso questa non è eccitante. E mangiare un panino con dentro un bambino. Sì, io a scuola avevamo anche un pelo rifatto il testo, ma... Senti, riprendiamo... Questa domenica stiamo buttando in vacca la puntata, però ci va di ma giocare, sì, però quante parliamo di cose ma quante serie, volte i nostri ascoltatori ci scrivono e ci dicono sì, è bello perché parlate di cose difficili rendendole semplici e ci divertite, quindi esatto, lo facciamo anche per loro. Siamo noi prima divertiti. Riprendiamo però il nostro sì, ascoltatore Franco Del Moro insieme alla sua compagna Michela Genova, i loro cani Kira, Pepper, Pink e Floyd, che ci hanno portato all'attenzione dei temi sì, particolari. Sì, perché lui per esempio sottolinea una cosa, lui dice che spesso un luogo comune da sfatare è quello che i cani in campagna vivono meglio di quelli in città, che non è sempre così, uh-huh, perché come dicevi anche tu prima o delle domeniche precedenti, spesso uno dice ah che bello, c'ho il giardino, prendo il cane, prendono, parcheggiano fuori, vedi i cani poverini che dormono sì, tutta la loro sì, vita sullo zerbino di casa che non vedono l'ora di entrare e socializzare. Bravissimo. Quindi suppongo che lui si riferisca a questo, sulla differenza fra cani dice, in campagna e in città. In campagna vivono spesso alla catena tutta la vita, senza alcuna socialità. Esatto. Curati e alimentati male, e di certo i contadini sono fra i peggiori proprietari dei cani, ancorati a una cultura del cane a dir poco ottocentesca. Sì. I cani in città sono nella maggior parte dei casi assai più fortunati, anche solo per il contatto e le attenzioni che ricevono dai loro proprietari. Perché il contadino pensa ancora al cane come un animale da lavoro. C'è cioè del che vero, deve aiutare, ma sì, io ti racconto di un altro contadino, comunque sì, di una persona che appartiva a questo tipo di cultura, ed era sì, il mio bisnonno. Lui era un guardiabosco, il suo cane corso una volta gli ha salvato la vita dai briganti, e da quel giorno il suo cane corso ha mangiato a tavola in casa a fianco a lui per tutta la vita. Amore, beh, se l'è dovuta conquistare però. Se l'è dovuta conquistare. Allora, quello che ci dice Franco non è così lontano dal vero, cioè la maggior parte dei contadini purtroppo ha una visione proprio utilitaristica del cane. Sì, ma non lo fanno per cattiveria, lo fanno perché sono cresciuti sì, così. Quindi bisogna evitare, così come abbiamo detto altre volte, di pensare giardino uguale cane felice, campagna certo, uguale cane felice. Il cane è felice soprattutto attraverso il contatto sociale. È naturale che debba muoversi, è naturale che debba fiutare in giro, è naturale che non possa stare sempre in casa, quindi bisogna portarlo in giro spesso. Ma è il contatto sociale una delle cose, dei bisogni più importanti da soddisfare nel cane. Quindi infatti sono più felici i cani in appartamento che escono tre volte al giorno, che fanno passeggiate, incontrano altri cani, fiutano in giro e via dicendo, ma vivono in casa, piuttosto che cani che invece hanno il giardino ma vivono tutto il tempo lì senza da il contatto soli. Sociale da sì, soli. Certo. Difatti tu mi avevi fatto impressione quando mi hai detto prova a osservare in alcune villette col giardino, guarda dove si mette a dormire un cane e li vedi sempre lì tutti arrotolati sullo zerbino davanti alla in porta genere, principale. In genere sì, non vedono l'ora che esca qualcuno, ma tante volte ho dei clienti che mi dicono ma signor, vai, mi ricordo uno, ma a 10.000 metri quadrati di terra cosa vuole di più il mio cane? Io gli ho chiesto dove passa la maggior parte del tempo il suo cane. Lui si fermò un attimo a pensare, è sullo zerbino di casa. E lui non vede l'ora che esca qualcuno. Quindi i cani che vivono a contatto con le persone in casa, in famiglia, sono più fortunati, hanno una qualità della vita più alta. Sposo in pieno quello che dice Franco. Senti, quindi tu a chi trova un cane per strada non è facile, chi vorrebbe si accorge che c'è un cane che si è perso come quello l'altro giorno, noi prenderlo non è assolutamente facile. Non è facile perché magari per paura cerca di mordere, oppure li vedi proprio tremare che si mettono in un angolo terrorizzati. Qual è l'approccio giusto che bisogna avere per quando uno si trova nelle superstrade, in autostrade, per salvarlo un cane? Allora, avere con sé un guinzaglio lungo e senza anelli di mezzo, senza doppi moschettoni, cioè maniglia da una parte, moschettone dall'altra, è la cosa migliore. Questo perché spesso c'è l'esigenza, questo a discapito proprio di chi mi dice che io sono il talebano della pettorina e senza pettorina io non so vivere. Non è assolutamente vero, è un mezzo assolutamente più comodo, tanto che per esempio alcuni canili seguiti dagli educatori cinofili Tin Dog hanno cambiato dal collare alle pettorine, si trovano tutti quanti meglio. Però ci sono delle situazioni dove il collare anche a cappio può essere utile, per esempio quando tu devi recuperare un cane spaventato, utilizzare un moschettone che passa attraverso la maniglia e quindi poterlo prendere rapidamente prima che si faccia investire è utile. Poi se hai la pettorina un po' magari tipo quel lazzo, no, non è un lazzo, perché tu praticamente inserendo il moschettone nella maniglia hai come un collare ma molto grande, quindi ti puoi avvicinare al cane delicatamente, glielo metti addosso e te lo sei assicurato così. Poi prendi un collare o una pettorina, glielo infili, agganci il moschettone e lo lasci in modo che non ci sia però questa... In questo caso, per tranquillizzarlo, non sarebbe ideale avere anche dei bocconcini o qualcosa che... Allora, spesso i bocconcini non funzionano in queste situazioni perché il cane è talmente spaventato che non ha e voglia di mangiare. E come fai a conquistare la sua fiducia in così poco tempo in una situazione d'emergenza? Come fai? Allora, una buona idea è non urlare, non andargli addosso, non fare pressione, eccetera, eccetera. Devi acquattarti, per esempio, spesso, soprattutto se il cane è spaventato, non parlo di cani aggressivi o mordaci, però abbassarsi, mettersi di fianco, dare loro del tempo, è un buon modo per farsi come si può dire, percepire come non minacciosi. E non è facile perché i cani decidono di fidarsi in quei momenti lì e quindi ovviamente meritano insomma di essere trattati bene. Se io invece corro verso un cane che è fermo, e in questo modo lo spingo via. In quel caso, prima che dicevamo dove io mi sono messo a correre, che questo cane da solo stava correndo, ha preso una direzione, quindi io mi sono messo a correre perché volevo capire dove che andasse a finire, no? Ho provato a fermarmi ma lui andava, quindi non aveva senso, certo. Era lontano 100 metri, ho cominciato a voler capire dove andare. Se invece il cane è fermo, vale la pena di parlare con voce gentile, non guardarlo direttamente negli occhi, se non ogni tanto, sorridergli, avvicinarsi piano, fare una traiettoria, per esempio una curva, acquattarsi, guardare nella sua stessa direzione perché ci venga ad annusare alle spalle, insomma dargli la possibilità di avvicinarsi. Bisogna lui. Prendersi anche del tempo e dargli del tempo per fidarsi, cosa che se uno decide di fermarsi e aiutare un animale... va da sé che la decisione va accompagnata dal fatto che devi avere tempo per poterlo mettere in salvo. Franco ci chiede anche che cosa fare quando il cane è stremato. Mi è capitato anche a me subito, evitare che ci siano bambini che gli ronzano attorno, bisogna proteggerlo, farlo stare tranquillo, dargli da bere soprattutto. Ah, certo. Dargli da mangiare qualcosa di leggero se lo mangia, perché potrebbe essere così stressato da non voler mangiare e va bene anche così, non bisogna insistere, e dargli una copertina, una cuccia, un riparo, qualcosa dove non ci sia il via vai, deve potersi rilassare il più velocemente possibile. Invece se noi cerchiamo di tranquillizzarlo mettendogli le mani addosso, facciamo peggio. Bene, grazie della mail, grazie Franco del Moro e tutta Franco la tua Michela. Bella tribù. E chiedimi se sono felice @24.it e ci vediamo domenica prossima. Buona domenica da Rosita e Angelo. Ciao.